Io sono partito proprio dal fatto che non mi convinceva il luogo comune secondo cui gli operai avrebbero tradito la sinistra, perché nei luoghi classici, storici, sia del movimento operaio che della sinistra, alle ultime elezioni c'è stato un cambiamento totale di rotta. Facciamo l'esempio di Torino, possiamo fare l'esempio di Monfalcone, piuttosto che di Genova o di Livorno o di La Spezia. Quel che emerge è che sicuramente un feeling è finito, nel senso che non c'è più una rappresentanza politica di chi lavora, cosa che ha segnato tutto il Novecento, non soltanto in Italia ma in Europa in generale, un rapporto tra le sinistre e il movimento operaio. Questa cosa non c'è più, ma semmai ha senso, e io non credo che ce l'abbia, parlare di tradimento, si potrebbe dire che è vero esattamente il contrario, cioè è la sinistra che ha tradito i lavoratori. Questo è quello che i lavoratori percepiscono, però non è vero che in massa sono andati a votare a destra, semplicemente in massa non sono più andati a votare, perché non si riconoscono più in quella sinistra che ha mutato in peggio le proprie condizioni. Pensiamo allo Statuto dei Lavoratori, all'articolo 18, ma anche all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, che è quello che impediva il controllo a distanza di chi lavora da parte della proprietà e della gerarchia. Questo problema è venuto fuori in modo forte ad Amazon, ma che cosa è successo? Che per esempio a Monfalcone, che era davvero un presidio storico della sinistra da subito dopo la guerra, ha vinto per la prima volta una sindaca leghista, laddove la destra ha preso meno voti di quelli che aveva preso alle elezioni precedenti quando ha perso, il che vuol dire che i lavoratori non sono andati a votare, perché non si riconoscono più in nessuna forza, non hanno più, come dicevo prima, una rappresentanza politica. E qui appunto subentra la solitudine e un altro elemento centrale, secondo me, nel tuo libro, che è molto interessante, una sorta di crisi di solidarietà, di spinta verso l'individualismo che sfocia poi anche in guerra fra poveri. Sì, se è comprensibile, persino in qualche misura condivisibile, la scelta di rompere i rapporti con le forze tradizionali della sinistra da parte della grande maggioranza dei lavoratori, i quali dicono, a me ha molto colpito quel che mi dicevano alla Beretta, per esempio, degli operai, ai quali io dicevo, ma in fondo gli ultimi governi di sinistra avranno fatto qualcosa di buono per voi, e la risposta è stata no, hanno fatto un disastro, perché mentre Berlusconi, siamo riusciti a fermarlo, ha avuto un'opposizione, quando è stato Renzi, quando è stato il centro-sinistra a far fuori l'articolo 18, non si è mosso nessuno. Questa è una storia amara, però è comprensibile. La cosa per me più drammatica è che quel che si è rotto è il meccanismo di solidarietà tra lavoratori, cioè è passata questa idea che è finita la lotta di classe verticale, diciamo così, dal basso verso l'alto, e però quel che è successo è che si sta scatenando la lotta di classe orizzontale, e cioè tra lavoratori, tra chi sta un po' peggio. È sempre possibile trovare qualcuno che sta peggio di te, no? Può essere il lavoratore del Bangladesh che accetta qualsiasi condizione. Può essere il lavoratore arruolato dai caporali, può essere il lavoratore interinale, precario, può essere il giovane rispetto all'anziano, può essere la donna rispetto all'uomo. Allora tutto questo lo si vede quando si va a parlare tra i lavoratori, persino tra quelli sindacalizzati, di immigrazione. Beh, si apre uno scenario, per quanto mi riguarda, inquietante, cioè vuol dire che questo messaggio è passato, che quando salta per aria non c'è più l'idea che tutti insieme, con una lotta comune, si può cambiare intanto la propria condizione, poi magari pure la società che ti sta intorno. Quello che passa è la difesa del proprio io, cioè si passa dalla solidarietà all'individualismo, l'individualismo proprietario, anche se non sei proprietario di nulla. Io non voglio dire che questo è già avvenuto, io dico che c'è una tendenza tendenza che va in questa direzione, cioè che la cultura di destra rischia di penetrare profondamente anche dentro il movimento operaio. Nell'attuale scenario politico ti sembra che ci siano forze che abbiano presente quello che sta accadendo? Direi proprio di no. Direi di no, ma al tempo stesso non voglio dare un messaggio negativo di disperazione. Molte volte i grandi cambiamenti epocali sono avvenuti non a partire dalla politica, ma a partire dalla società. Pensiamo, non voglio dire alla rivoluzione francese e neanche a quella russa, ma pensiamo al 68-69, il biennio che ha cambiato il mondo, le relazioni fra le persone, che ha ricostruito un minimo di eguaglianza che adesso ci siamo giocati. Per cui è possibile che se anche nella politica non si vedono, come dire, delle forze robuste, perché poi è pieno anche di piccole realtà, di piccole forze politiche che hanno a cuore le condizioni di chi lavora, che sanno in che condizioni vive e lavora un bracciante in Puglia piuttosto che un magazziniere alla Coca-Cola nella logistica, però non è in condizione quella forza, quelle piccole forze politiche non sono in condizione di rovesciare la linea di tendenza. Spero di sbagliarmi naturalmente e spero di essere clamorosamente smentito alle prossime elezioni, dove tutti i lavoratori andranno a votare e voteranno per la sinistra. Ecco, lo spero, ma ci credo poco.